Ma a proposito del giovane violinista, continuò Brichot, dimenticavo, Cottard, di parlarvi della grande notizia. Sapete che è morto il nostro povero amico de Chambre, già pianista favorito di Madame Verdurin? Una cosa terribile. Era ancora giovane, rispose Cottard, ma credo che avesse il fegato malandato. Doveva avere qualcosa di brutto da quelle parti. Era un po' di tempo che faceva paura a guardarlo. Non era poi così giovane, disse Brichot. Quando Elstir e Swann venivano da Madame Verdurin, de Chambre era già una celebrità parigina. E cosa mirabile, senza aver ricevuto all'estero il battesimo del successo. Non era un seguace del Vangelo, secondo San Barnum, lui. Vi confondete, non è possibile che venisse da Madame Verdurin a quel tempo, era ancora in fasce. Eppure, a meno che la mia vecchia memoria non mi inganni, mi sembrava che de Chambre eseguisse la sonata di Vinteuil per Swann quando quel gruppettaro pencolante verso l'aristocrazia era alquanto lontano dal pensare che un bel giorno sarebbe diventato l'imborghesito principe consorte della nostra odette nazionale. È impossibile, quando da Madame Verdurin si eseguiva la sonata di Vinteuil, era molto tempo che Swann non ci veniva più, affermò il dottore, il quale era una di quelle persone che lavorano molto e credono di dover ricordare molte cose supponendone l'utilità, ma ne dimenticano molte altre, ciò che permette loro di estasiarsi davanti alla memoria di chi non ha niente da fare. Fate torto alle vostre conoscenze, eppure non siete affatto rammollito, aggiunse il dottore sorridendo. Brichot ammise il proprio errore. Il treno si fermò. Era La Sogne. Quel nome mi incuriosiva. Come mi piacerebbe sapere cosa significano tutti questi nomi, disse a Cottard. Chiedetelo a Brichot, lui forse lo sa. Ma certo, La Sogne è la Cigogne, Siconia, rispose Brichot, che non vedevo l'ora di interrogare su altri nomi. Dimenticando di tenere al suo angolino, Madame Scherbatov m'offerse gentilmente di scambiarsi di posto con me perché potessi meglio conversare con Brichot, al quale volevo chiedere altre etimologie che mi interessavano, e m'assicurò che le era indifferente viaggiare in direzione di marcia, in direzione contraria, in piedi, eccetera. La principessa si manteneva sulla difensiva finché ignorava le intenzioni dei nuovi arrivati, ma quando li aveva riconosciuti come persone amabili, cercava in tutti i modi di compiacere ciascuno. Il treno finalmente si fermò alla stazione di Deauville-Féterne, che, situata più o meno alla stessa distanza dal villaggio di Féterne e da quello di Deauville, ne portava di conseguenza entrambi i nomi. «Per dindirindina!» esclamò il dottor Cottard quando arrivammo alla barriera dove controllavano i biglietti, e fingendo d'accorgersene solo in quel momento, «non riesco a trovare il mio biglietto, devo averlo smarrito». Ma il controllore, togliendosi il berretto, assicurò che non aveva importanza e sorrise rispettosamente. La principessa, che dava istruzioni al cocchiere, neanche fosse una specie di dama d'onore di Madame Verdurin, la quale per via dei cambremer non era potuta venire alla stazione, cosa che d'altronde faceva raramente, e prese con sé, assieme a Brichot, in una delle carrozze. Nell'altra salirono il dottore, Saniette e Ski. Il cocchiere, benché giovanissimo, era il primo cocchiere dei Verdurin, il solo che fosse davvero titolare del ruolo. Li conduceva di giorno a fare tutte le loro passeggiate perché conosceva tutte le strade e di sera andava a prendere e poi riaccompagnava i fedeli. Era affiancato da aiuti straordinari che sceglieva lui stesso in caso di necessità. Era un bravissimo ragazzo, sobrio e capace, ma con una di quelle facce malinconiche dove lo sguardo, troppo fisso, tradisce un'eccessiva disposizione alla bile, magari anche alle idee nere. In quel periodo, però, era addirittura felice, perché era riuscito a sistemare suo fratello, altra eccellente pasta d'uomo, presso i Verdurin. Dapprima attraversammo Deauville. Mammelloni erbosi scendevano fino al mare, in ampie pasture cui la saturazione dell'umidità e del sale dava uno spessore, una morbidezza, una vivacità di tinte straordinari. Gli isolotti e i fiordi di Rivebelle, qui molto più vicini che a Balbec, davano a questa parte del mare l'aspetto per me inusitato di un plastico. Passammo davanti a villette prese quasi tutte in affitto da pittori. Imboccammo un sentiero dove alcune vacche in libertà, non meno spaventate dei nostri cavalli, ci bloccarono per 10 minuti il passaggio e raggiungemmo la strada panoramica. «Ma per gli dèi mortali!» chiese tutto ad un tratto Brichot. «Torniamo a quel povero Deschambre. Credete che Madame Verdurin sappia? Gliel'avranno detto?» Madame Verdurin, come quasi tutte le persone della buona società, proprio perché aveva bisogno della compagnia degli altri, non pensava più un solo giorno a loro, una volta che, essendo morti, non potevano più andare ai mercoledì e nemmeno ai sabati, né a pranzare in famiglia. E non si poteva certo dire del piccolo clan, immagine in questo di tutti i salotti, che fosse composto più di morti che di vivi, dal momento che, non appena uno moriva, era come se non fosse mai esistito. Ma per evitare la seccatura di dover parlare dei defunti, se non addirittura di sospendere i pranzi, cosa inconcepibile per la padrona, a causa di qualche lutto, il signor Verdurin fingeva che la morte dei fedeli addolorasse a tal punto la moglie che nell'interesse della sua salute bisognava non parlarne. Per converso, e forse proprio perché la morte degli altri gli sembrava un incidente così definitivo e così volgare, il pensiero della sua gli faceva orrore e rifuggiva da ogni riflessione che vi si potesse riferire. Quanto a Brichot, siccome era una bravissima persona e si beveva tutto ciò che Verdurin diceva della moglie, paventava per l'amica le emozioni d'un simile dolore. «Si sa tutto da stamane», rispose la principessa. «Non si è potuto tenerglielo nascosto». «Oh, per 1000 tuoni di Zeus!» esclamò Brichot. «Deve essere stato un colpo terribile. Un'amicizia di 25 anni. Era davvero dei nostri, lui». «Certo, certo che volete farci», disse Cottard. «Sono circostanze sempre penose. Ma Madame Verdurin è una donna forte e una cerebrale ancor più che un'emotiva». «Non condivido del tutto l'opinione del dottore», disse la principessa, a cui la parlata rapida, l'accento mormorato, davano decisamente un'espressione al tempo stesso imbronciata e sbarazzina. «Sotto un'apparenza fredda, Madame Verdurin nasconde tesori di sensibilità. Il signor Verdurin m'ha detto che era riuscito a stento a impedirle d'andare a Parigi per la cerimonia. È stato costretto a farle credere che si sarebbe svolta in campagna». «E perbacco, voleva andare a Parigi! Ma lo so che è una donna di cuore, persino troppo, forse. Povero Deschambre! Come diceva Madame Verdurin meno di 2 mesi fa. In confronto a lui, Planté, Paderewski, lo stesso Riesler, nessuno regge. Lui sì, avrebbe potuto dire, a ben maggior diritto di quell'esibizionista di Nerone, che ha trovato il modo di mettere nel sacco persino la scienza tedesca, qualis artifex pereo. Deschambre, almeno, deve essere morto nel compimento del sacerdozio, in odore di devozione beethoveniana. E coraggiosamente, non ne dubito, secondo giustizia, un tale ufficiante della musica tedesca avrebbe meritato di trapassare celebrando la messa in re. Ma era del resto un uomo da accogliere la camusa con un trillo, giacché quell'esecutore di genio ritrovava talvolta nella sua ascendenza di Champenois pariginizzato spavalderie ed eleganze da francese della vecchia guardia. Dall'altezza a cui ormai eravamo giunti, il mare non appariva più come da Balbec, simile a un ondulante sollevarsi di catene montuose, bensì a un ghiacciaio azzurrino o a una piana abbagliante, situati a un livello inferiore, quali appaiono da un picco da una strada che gira attorno alla montagna. I mulinelli irregolari delle correnti sembravano immobilizzati, quasi avessero disegnato per sempre i loro cerchi concentrici. Lo stesso smalto del mare, che trascolorava insensibilmente, prendeva verso il fondo della baia, dove s'apriva un estuario, il biancore azzurro d'un latte, nel quale piccoli traghetti neri e immoti parevano invischiati come mosche. Mi sembrava che da nessun altro luogo si sarebbe potuto scoprire un quadro altrettanto vasto. ma a ogni nuovo tornante vi si aggiungeva qualche parte nuova, e quando arrivammo al dazio di Deauville, lo sperone di roccia che ci aveva nascosto fino a quel momento una metà della baia si ritrasse, e vidi di colpo, alla mia sinistra, un golfo non meno profondo di quello che prima avevo di fronte, ma, rispetto a questo, di proporzioni diverse e di raddoppiata bellezza. L'aria, a quella quota così elevata, mi inebriava con la sua vivida purezza. Volevo bene ai Verdurin. Averci mandato una carrozza mi sembrava un'attenzione commovente. Avrei voluto baciare la principessa. Le dissi che non avevo mai visto niente di altrettanto bello. Dichiarò d'amare anche lei quel paese più d'ogni altro, ma sentivo che per lei, come per i Verdurin, quel che contava non era contemplarlo da turisti, bensì farvi buoni pasti, frequentarvi persone gradevoli, scrivere lettere, leggere, insomma, viverci, lasciandosi lambire passivamente dalla sua bellezza piuttosto che farne l'oggetto del proprio interesse. Poiché il dazio, dove la carrozza si fermò per qualche istante, era situato a una tale altezza sul livello del mare che la vista della voragine azzurra dava come da una cima quasi un senso di vertigine, abbassai il finestrino. Nel rumore, percepito distintamente da ogni singola onda che si frangeva nella sua nitida dolcezza, c'era qualcosa di sublime. Non era forse una sorta di indice di misurazione quell'indice che, rovesciando le nostre impressioni abituali, ci mostra come le distanze verticali possono essere assimilate alle distanze orizzontali, contrariamente alla rappresentazione che usa farsene il nostro intelletto, e come, avvicinandoci al cielo, esse non siano poi così grandi, e ancora meno grandi siano per un rumore che, come faceva quello dei piccoli flutti, le oltrepassa, giacché più puro è il mezzo che deve attraversare. In effetti, se si indietreggiava di appena 2 metri rispetto al casello del dazio, non si distingueva più quel rumore di onde cui 200 metri di scogliera non avevano tolto la delicata, minuziosa e dolce precisione. Mi dicevo che la nonna avrebbe provato per quel rumore l'ammirazione ispiratale da tutte le manifestazioni della natura e dell'arte nella cui semplicità si legge la grandezza. La mia esaltazione era al culmine e faceva levitare tutto ciò che mi circondava. Ero commosso che i Verdurin avessero mandato a prenderci alla stazione. Lo dissi alla principessa, che parve trovare eccessiva la mia valutazione di una così semplice cortesia. So che più tardi confidò a Cottard di trovarmi smodatamente entusiasta. Il dottore le spiegò che ero troppo emotivo, che avrei avuto bisogno di calmanti e di lavorare a maglia. Facevo notare alla principessa ogni albero, ogni casetta in rovina sotto le rose, le facevo ammirare tutto, avrei voluto stringermi al cuore anche lei. Disse che mi vedeva dotato per la pittura, che avrei dovuto disegnare, si stupiva che nessuno me lo avesse ancora detto e ammise che in effetti quei luoghi erano pittoreschi. Attraversammo, appollaiato sull'altura, il piccolo villaggio di Anskeville, Engleberti Villa, ci disse Brichot. «Ma siete proprio sicura, principessa, che il pranzo di stasera ci sarà, nonostante la morte di Deschambres?» aggiunse il professore, senza riflettere che la presenza alla stazione delle carrozze in cui ci trovavamo era già una risposta. «Sì», confermò la principessa. «Il signor Verdurin ha voluto che non ci fossero rinvii proprio per impedire alla moglie di pensare. E poi, dopo tante anni in cui non ha lasciato passare un mercoledì senza ricevere un tale cambiamento nelle sue abitudini, avrebbe potuto sconvolgerla. È molto nervosa in questo periodo. Il signor Verdurin era particolarmente felice che ci foste voi al pranzo di stasera perché sapeva che sarebbe stata una grande distrazione per Madame Verdurin», continuò la principessa, dimenticando che aveva finto di non aver mai sentito parlare di me. «Credo che farete bene a non parlare di niente davanti a Madame Verdurin», aggiunse, Avete fatto bene a dirmelo, osservò ingenuamente Brichot. Trasmetterò la raccomandazione a Cottard. La carrozza si fermò brevemente. Ripartì, ma senza più il rumore che le ruote avevano fatto nel villaggio. Avevamo imboccato il viale d'onore della Raspellière, dove il signor Verdurin ci aspettava sulla scalinata. «Ho fatto bene a mettermi lo smoking», disse, constatando con piacere che i fedeli indossavano il loro, «dal momento che abbiamo gente così elegante». E poiché mi scusavo della mia giacca, «ma cosa dite? Va benissimo. Sono pranzi fra amici questi. Sarei lieto di prestarvi uno dei miei smoking, ma non vi andrebbe bene». Lo shake hand pieno di emozione che, penetrando nel vestibolo della Raspellière, Brichot diede al padrone a mo' di condoglianze per la morte del pianista, non provocò da parte di lui il minimo commento. Gli parlai della mia ammirazione per quei luoghi. «Ah, magnifico! E ancora non avete visto nulla, ci penseremo noi. Perché non venite ad abitare qui per qualche settimana? L'aria è eccellente». Brichot aveva paura che la sua stretta di mano non fosse stata capita. Quel povero Deschambre», disse, ma a mezza voce, nel timore che Madame Verdurin non fosse abbastanza lontana. «Una cosa terribile», rispose allegramente il signor Verdurin. «Così giovane», riprese Brichot. Non sopportando di dilungarsi su argomenti tanto inutili, Verdurin replicò in tono frettoloso e con un gemito acutissimo, non di dispiacere, ma di impazienza irritata. «Sì, certo, ma cosa volete? Non possiamo farci niente, non saranno le nostre parole a resuscitarlo, non vi pare?» E ritrovando la dolcezza assieme alla giovialità, «Su, su, caro Brichot, posate in fretta la vostra roba. C'è una bouillabaisse che non deve aspettare. E soprattutto, per amor del cielo, non andate a parlare di Deschambre a Madame Verdurin. Sapete quanto nasconda ciò che prova, ma ha una sensibilità veramente morbosa. Ma sì, ve lo giuro, quando ha saputo che Deschambre era morto, a momenti piangeva», disse Verdurin in tono di profonda ironia. A sentirlo, si sarebbe detto che bisognava essere pressoché dementi per rimpiangere una persona di cui si era amici da 30 anni, e d'altra parte si intuiva che l'unione perpetua con la moglie non impediva al signor Verdurin di giudicarla di continuo e spesso di provarne fastidio. «Se gliene parlate, starà male di nuovo, sarebbe deplorevole 3 settimane dopo la bronchite. In questi casi tocca a me fare da infermiere, capirete, ne sono appena uscito. Doletevi in cuor vostro della morte di Deschambre finché vi pare. Pensateci, ma non parlatene. Volevo molto bene a Deschambre, ma non potete condannarmi se ne voglio ancora di più a mia moglie. Ecco, sta arrivando Cottard, potete chiedere a lui». E in effetti non ignorava che un medico di famiglia sa rendere molti piccoli servigi, come per esempio prescrivere che bisogna evitare ogni dispiacere.